Noi siamo la quinta B e come qual è il suo nome? Prego. Come si chiama? Ah, io sono Adriano e sono in pensione da 6 anni e mi dedico come passatempo all'orto per filosofia e anche un po' per dedicarmi a qualche cosa per poter passare la giornata bene. Da quanto tempo fai questo lavoro? Da quando non è un lavoro, è un passatempo per me. E praticamente, ho detto, sono 6 anni che sono in pensione e sono 6 anni che lavoro l'orto. Quanto tempo dedichi al giorno all'orto? Il detto popolare sarebbe che l'orto vuole l'uomo morto, ma non perché ti uccide, ma semplice fatto che richiede sempre, sempre presenza. O per un motivo o per l'altro, devi dedicarti proprio tanto tempo. Com'è nata la tua passione per l'orto? L'orto perché primo avevo la disponibilità di poterlo coltivare, secondo per avere la filosofia che dicevo prima del sapere cosa mangio, perché quando andiamo al supermercato non sappiamo bene né origini né niente, se sono trattate, non sono trattate, qua so che succede tutto sotto i miei occhi, è più sano insomma. Quali emozioni provi a coltivare l'orto? Ma soddisfazioni più che emozioni, perché è una natura morta, di conseguenza che vive solo vegetativamente, però le soddisfazioni di vederla crescere sana, che hai fatto tutto il tuo lavoro bello e ti giri e vedi un bel orto e dici ho lavorato bene. Che piante coltivi? E qua dopo vi spiego perché ci sono un sacco di piante da coltivare, però i frutti, però dobbiamo tenere presente che siamo in Trentino e il clima non è adatto a certe coltivazioni, per cui scopriremo quali che sono le coltivazioni nostre qua locali. Quale pianta ti piace di più? Da mangiare o da coltivare? Tutti e due. Allora, da mangiare sempre foglia verde, lattuga, insalata, indubbia, quelle cose lì. E da soddisfazione il cavolo nero, che è quella pianta là, che adesso la devo levare perché devo rinnovarla con quelle nuove, perché questa è autunnale invernale, per dire, di crescita. Difatti la ricetta trentina la usa dall'autunno primavera, però adesso deve rinnovarsi, perché vedi che quando la pianta ha i fiorellini così, vuol dire che è pronta per fare gli semi da riproduzione. Ha finito il suo ciclo vegetativo, altrimenti la verdura lì non sarebbe buona e comincia a perdere caratteristiche. Improvvisarsi coltivatori dei ortaggi è una cosa un po' difficoltosa perché ci sono tantissime cose da sapere. Io sono fortunato che avevo un nonno che mi ha passato un po' le nozioni tecniche e cognitive della natura, e allora applicandole ho visto che i risultati danno buoni frutti proprio nella parola giusta. Si comincia con un territorio, con un terreno, e praticamente si deve coltivare. La terra non è sempre idonea a tutte le verdure, a tutti gli ortaggi, per cui bisogna rimpinguarla magari di terriccio più morbido, più soffice, magari torba, che è la decomposizione, e quella me la creo con tutto quello che vediamo di naturale, e le bucce delle patate, del consumo dell'orto in cucina nostra, lo buttiamo lì, lo copriamo con l'erba e nel giro di 7-8 mesi, se noi portiamo tutta quella roba marcia, verde, secca, avremo uno strato di almeno mezzo metro di terra che dopo noi faremo per l'orto, per ammorbidirlo. Questa è la vanga, perché è anche fertilizzante, perché ha dentro tutti i minerali che rimangono nella terra, per cui la vanga si usa così, e vedete che abbiamo dissodato un po' il terreno, per cui le zolle si sono rotte, prenderemo, non è questo, ma tipo questo qua, lo mettiamo qua e lo copriremo. Dopo una settimana avremo che questo qua si è macerato, si è disciolto nel terreno, e di qua una bella rastrellata e mettere tutto a livello, verrà il terreno pronto per la semina o piantare o trapiantare o fare quello che si deve fare. Dopo bisogna essere sicuri che si ha la possibilità di innaffiare, perché è una delle forze della crescita dei vegetali. Per cui se non ho acqua, impensabile fare l'orto. Ci aspettiamo come questi anni l'acqua dal cielo e possiamo andare a comprarla subito, la verdura ci costa meno. E dopo un'altra cosa è la luce, perché la luce è importantissima. La migliore crescita della verdura è sulle ore del sole mattutine. Qua è l'ideale, perché sorge da là, da est, e cresce. Ogni cosa che gli fa ombra, come potete vedere, la crescita qua, vedi, solo quello scalino lì riesce a far ombra. Vedete che piccole che sono le piantine? Sono state seminate uguali. Qua quel problema lì non ce l'hanno. Vedete che grandi che sono in confronto a quello. E è determinante praticamente la luce e il calore del sole. Per cui avremo un orto che qua la vegetazione avrà un'altezza che va sempre crescendo. Capito? Un'altra cosa, questo è un orto che praticamente deriva da un campo di viti. Qua era un campo di viti. Solo che dopo, tra esigenze di marciapiede e tutto, non valeva la pena mantenerlo. Però adesso voi fate, immaginatevi 3-4 filari di viti, no? E qua ci sono dentro degli alberi. La caratteristica dell'orto vicino a casa era proprio anche perché c'era il campo vicino e perché non c'erano i negozi forniti come adesso, mettevano tra le viti un albero da frutto. Qua per esempio è un ciliegio, due peschi selvatici, prugne selvatiche, noci, nocciole, albicocche. Per cui qua avevi l'autosufficienza della frutta e della verdura che serviva per la vita, perché appunto non c'era la grande distribuzione che c'è adesso. Questo è un orto nel centro storico, perché se noi usciamo di là siamo dritti in piazza. E bene, allora torniamo al nostro orto. Allora adesso abbiamo un altro problemino da risolvere. Qui ci sono tantissimi insetti sottoterra. Quando ho girato delle zolle, no? Praticamente ho fatto uscire gli insetti da sottoterra e li ho messi sopra, e non è il suo habitat. E allora arrivano gli uccellini a pulirmi i parassiti, per cui non mi servono trattamenti sottoterranei. Se andate nel prato lì, vedete dei bucherellini, sono fatti dalle zappette dei merli per cercare questi insetti. Aprono l'erba proprio. Ecco qua, guarda, qua. Questi, vedi, sono fatti dagli uccellini. Anche qua. Sì, dappertutto, perché qua avremo almeno 30 merli. Al mattino è nero di merli. E ci svegliano alle 5 di mattina. Bene. E dopo appunto ci sono delle piante che devi stare attento, perché se sono infestanti e ti scappano. Quelle là sono fragole. E per me là fragole ne vengono tantissime. Però se non sto attento mi trovo fragole dappertutto. Perché continuano ad avanzare. Là ho messo una piantina di menta, vedete là vicino c'è una piantina di menta, ma in 2 anni è già su a metà campo, lungo il muro. Perché? Perché è praticamente infestante, continua a andare avanti, avanti, avanti. Queste le metto perché sono delle piante che aiutano a tenere lontani i parassiti ai pomodori. Qua, che non è ancora tempo, metto tutti i pomodoro, però ogni due piante metto un basilico. Conoscete il basilico? Sì. Il profumo del basilico tiene lontano la zanzara, che picchietterebbe la foglia, e anche il pidocchio. Per cui con una pianta combattiamo gli insetti e aiutiamo le altre piante. E bisogna continuare a provare a fare queste cose, perché proprio il nostro scopo è di avere un orto sano, bello e producente. Bene. Dopo ci sono delle piante che noi dobbiamo piantarle o seminarle o addirittura depositarle, che dopo hanno bisogno di tante cose. Ieri è stato, i vostri altri compagni, gli ho fatto piantare delle cipolline, giusto? E dopo vi faccio fare, anzi qua metteremo quinta, il filo, l'hanno piantato i vostri compagni. E l'altra era quinta A. Sì. Ecco, allora domani metterò qua quinta A, diremo un'altra riga, metteremo quinta B. Adesso lì ho delle due bustine di semi, però noi dobbiamo, come ho detto prima, proteggerli, perché come mangiano gli insetti nel prato, io ho preparato il terreno, mi hanno mangiato gli insetti dopo, perché ci sono gli uccelli insettivori e ci sono i granivori. Questi mi aiutano, ma ci sono di quelli che mi distruggono l'orto. Adriano, dimmi, ci sono i merli. Oh mamma mia, ci sono anche le tortore, guarda là. Adesso sono qui, è sul pruno.